Penso, penso che meglio, che bella quanta vada che questo cuore in piaga, risulto d'adora il bello, mi risalto d'adora. Penso che meglio, che questo cuore in piaga risolto.